Lui che per tutta la vita era sempre stato così tanto sicuro di sé, che le parole gli stavano in bocca come famosi quadri dentro a un museo, adesso invece si vergognava che in una giornata così piena di sole sporcasse il muro con la sua ombra. Quelli che s'aggiravano come lo spettro s'aggirò per l'Europa, si fermarono in silenzio, poi incominciarono a fare il conto all'incontrario, come la notte di Capodanno, e dissero: meno 5, 4, 3, 2, 1. Con un po' d'emozione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Eccoci qua alle 21.09, gli 87.9 di Radio Onda Rossa, inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi, 7 novembre del 2018. Your pressure is low. Consueto spazio ormai esistente dal 1992, che si occupa di industrial, elettronica, ambient, noise, tutto ciò che concerne la sperimentazione. Uno spazio che andrà avanti sino alle 22.30 circa. dopo di che ci sarà 25 o'clock. I soliti saluti per Raffaele Pezzella in quel di Napoli, Like a Wake qui da Roma, Maya dalla Sardegna, Silvia qui da Roma, Maria D'Agostini, Gianluca Becuzzi che salutiamo, anche loro da Roma. Luciano FM genovese, valente musicista sempre qui di Roma. E a proposito di Becuzzi, segnalo The End, rilettura integrale di un vecchio album di Nico, un album concepito da Becuzzi insieme a Massimo Olla, un buon album che in futuro ci ascolteremo naturalmente su queste frequenze. Anche Anna qui da Roma la andiamo a salutare. Dopodiché cominciamo con andarci ad ascoltare, un po' che non lo facevamo, un qualche cosa di Coagulant. Coagulant è un progetto ambient, dark ambient, dietro il quale si cela Fabio F.K. Jones, ex militante dei Matter. Con i Matter, per gran parte della carriera, i suoni si sviluppavano nell'area del tech noise, e qui invece appunto le cose si fanno molto molto più rarefatte. Abbiamo qui Concealment, un album del 2018, in realtà due tracce abbastanza lunghe. Questa sera ci ascoltiamo una gran parte di Future Spectrum. Eccellente questo drone di Fabio F.K. Drone, in arte Coagulant. Questo Concealment, due traccione per questo tra virgolette mini uscito nel 2017, ma anche nel 2018. Coagulant è stato particolarmente attivo in quel di Londra, dove ha registrato gran parte del suo materiale e dove vive attualmente Fabio. Intanto la Sardegna questa sera è effettivamente e degnamente rappresentata anche da Massimo Olla, che risalutiamo e che, ripeto, ha fatto un ottimo album dopo l'uscita dell'anno scorso Red Room insieme a Gianluca Becuzzi, un album che presto sentiremo da queste frequenze. Anche Nicola Locci, Stigmate, un progetto che abbiamo apprezzato qualche tempo fa, anche lui sta lì su quella splendida isola. Un saluto anche al Fulvio Biondo di Solar Lodge, del quale abbiamo anche il suo materiale, e anche di lui faremo una retrospettiva a breve. Intanto noi andiamo in Libano. Da un po' stiamo un po' conoscendo questa scena attraverso Lebanon Music Survey Anthology of Electroacoustic Lebanese Music, quindi la scena elettroacustica addirittura del Libano, grazie a Raffaele Pezzella, questo infaticabile ricercatore di musiche altre, ma anche in altre dimensioni geografiche che di solito non vengono analizzate. E quindi stiamo conoscendo una serie di artisti. Questa sera tocca a Ziad Mukarzel. E di lui ci ascoltiamo Questions of Worry. Thank you. Ziad Mukarsel, dunque, dal Libano, probabilmente da Beirut, dove si concentrano la maggior parte di questi talenti nascosti. Talenti che affollano questa compilation, dunque, Lebanon Music Survey, Anthology of Electroacoustic, Lebanese Music. Un grazie ancora a Raffaele Pezzella e invito chi sta all'ascolto, naturalmente, di visitare anche il profilo sia Bandcamp sia proprio di Facebook della Next Place Sounds Group, dove si trovano delle dritte clamorose dal punto di vista musicale di questo instancabile ricercatore di Napoli, il signor Raffaele Pezzella, che salutiamo di nuovo e che un giorno forse ci sconoscerà, chissà. Brevemente volevo anche enunciare due iniziative, una di questa sera che si sta tenendo a Centocelle Aperte, un'assemblea sul futuro di ATAC, anche riferimento al referendum che si terrà domenica prossima, un appuntamento che è iniziato proprio intorno alle 20:21, un dibattito che verrà presente anche ovviamente Radio Onda Rossa. E venerdì prossimo a Forte Prenestino ci sarà Orasi, una delle più interessanti artiste hip hop della scena militante inglese, con supportate da Serpent Seno da Roma e Tokaref da Bari. 5 euro a sostegno di Radio Onda Rossa, e verrà anche presentata la nuova Scherceranda 2019, una delle nostre più famose autoproduzioni. Salutiamo anche Sandra. E noi lasciamo Ziad Mukarsel e le sue trame così ipnotiche, quasi 10 minuti di questo andamento. Una bella traccia questa, che si chiamava Questions of Worry. Saltone geografico, andiamo in Scandinavia. Stiamo un po' rivisitando la vecchia scuola industriale svedese che faceva riferimento alla Cold Meat Industry, e quindi ci andiamo ad ascoltare un qualcos'altro ancora dei Mental Distraction. Ci andiamo ad ascoltare altre due tracce, ovviamente diverse rispetto a quelle delle scorse settimane, di questo The Intensity of Darkness, un vecchio lavoro del 1991. I Mental Distraction hanno fatto 3 album, l'ultimo nel 96, ma di tanto in tanto si affacciano soprattutto in attività live. Sta per partire Children of Wrath e End at the Fire, Mental Distraction. questi lugubri scenari ideati da Mental Destruction. La scuola industrial noise svedese dell'inizio degli anni 90, che si alternava, almeno in questo caso, a questo gusto decisamente ultragotico, con questi organi così profondi. Ricordo un lavoro del 1991, questo The Intensity or Darkness, e per rimanere in quegli anni e in quelle latitudini geografiche, oltre che anche in parte in quell'etichetta, andiamo un po' a citare questi Machine & Zimmer 412, che usavano all'inizio della loro carriera proprio questo nome nella forma più allungata, prima di renderlo più corto e farsi chiamare MZ412. Abbiamo qui questo Macht, eccolo qua, Macht Durchstim, proprio il loro lavoro di esordio, che uscì sia per la Cold Meat Industry nel 90 e fu ristampato nel 91 da un'altra etichetta assai famosa all'epoca, la Dark Vinyl. Un album diviso in due parti, una gran parte live e una parte invece in studio. Ci ascoltiamo Options Theory, che abbiamo ascoltato la scorsa settimana dal vivo, e anche la traccia successiva dal nome Rud. era Macht durch Stimme per Maschinenzimmer 412, naturalmente di Nordwarker. Nordwarker che poi andrà anche a fondare più là Folkstorm e stamperà anche molto materiale attraverso il suo nome. Options Theory con questo andamento percussivo molto ossessivo ed ipnotico, e la successiva Rude con quegli stridori così sinistri. Adesso mi casca lo sguardo proprio sulla copertina di questo CD, comprai qualche tempo fa, ed è bello pensare che stampato nel 1991, per quanto riguarda i riferimenti dava soltanto un numero di fax, quindi non c'è stato neanche un sito internet, nulla, soltanto un numero di fax. Salutiamo anche Medico della Peste, anche lui artista qui di Roma. E noi invece proprio torniamo in Italia. Come dice Massimo Olla, MZ412 da farsi male veramente. E d'altronde Nordwarger non si è mai risparmiato al riguardo, uno degli artisti più creativi per quanto riguarda questa scena, sì, la scena svedese, ma in generale la scena industrial noise. Quindi da Nordwarger, dai suoi MZ412, passiamo a Alos di Stefania Pedrini, artista militante anche negli Ovo con Bruno Dorella. E mentre negli Ovo appunto privilegia il lato noise, qui fa capolino, una sperimentazione molto molto particolare. Un album che si chiama Ricamatrici, e ci andiamo ad ascoltare le ultime due tracce di questo lavoro. Dal nome Un'ora sola e Appunti di viaggio. Ringrazio invece Massimo Olla di avermi corretto, l'avevo chiamata Stefania Pedrini, invece no, è Stefania Pedritti, ma è sicuramente Alos, ancora una traccia per lei, da questo Ricamatrici. Mm. Thank you.